sviluppando criticamente le considerazioni che ha appena svolto Cristina Viani, potremmo far notare che anche in aereo, diversamente che in tram, si mangia. Non si mangia per iniziativa e o per evidenza personale, perché anzi ci sono delle norme rigidissime che vietano la consumazione di qualsiasi prodotto solido o liquido che il viaggiatore possa aver portato con sé. Si mangia per iniziativa altrui, per contratto di viaggio. Allora stabilita, lungo i corridoi sfilano degli appositi carrelli molto odorosi e il passeggero viene fermamente pregato ad abbassare l'apposito tavolinetto reclinabile su cui gli assistenti di volo depositano con destrezza un elegante vassoietto il cui contenuto riesce ingegnosamente a simulare un pasto completo in tre portate. Dico a simulare perché, nonostante quanto assicura la pubblicità di talune linee aeree, né il contenuto della scodellina del primo, né il contenuto della scodellina del secondo, né il contenuto della scodellina del dessert ricordano sia pur vagamente quanto i passeggeri, anche i meno interessati al cibo, sono soliti consumare a terra, ma non importa. I convitati capiscono che ovvie esigenze di standardizzazione, di preconfezionamento, di stivaggio e trasporto escludono a priori la possibilità di allestire qualcosa di suscettibile dell'approvazione di Proglias Varenne e non protestano se quello che viene loro offerto non è proprio trascendentale da un punto di vista gastronomico. Tra l'altro, la situazione è sgradevole anche per da altri punti di vista, perché non è facilissimo consumare un pasto più o meno completo nello spazio ristretto di un posto di aereo, schiacciati come siete al sedile davanti, a 12 centimetri scarsi dal tuo naso, e due compagni di viaggio a sicura portata di gomito. Ma tutti si adattano volentieri alla procedura, se non altro perché tra una cosa e l'altra, tra l'inizio, lo svolgimento, la conclusione, il pranzo e la cena aiutano a sopportare l'inenarrabile noia di un viaggio in quelle condizioni. È interessante notare come i pasti non siano affatto serviti su tutti i voli e non siano sempre serviti all'ora di pranzo. Non è che siano serviti solo su dei voli abbastanza lunghi da fare logicamente prevedere la necessità di saziare i passeggeri o di placare la loro noia, o su quelli che si svolgono alle ore in cui la consuetudine culturale e sociale prevede che si consumi un pasto. Sono serviti secondo contratto, dicevamo prima, in base a dei criteri che non hanno quasi nulla a che fare con la necessità di nutrirsi. Per esempio i pasti sono sicuramente assenti su qualsiasi volo nazionale, quale che sia la sua durata e il suo orario, anche se non sarebbe così assurda l'idea che un passeggero in viaggio, diciamo da Milano a Roma, verso l'una possa desiderare uno spuntino, no? Mentre sono sempre presenti sui voli internazionali, fossero pure un collegamento di tre quarti d'ora, non so, un Milano-Francoforte a metà del pomeriggio, quando è assolutamente ovvio presumere che tutti abbiano già pranzato e che nessuno abbia la minima voglia di cenare ancora. E sono serviti con grande determinazione e costi quello che costi. In un viaggio medio breve, diciamo dalla durata di fino a 2 o 3 ore, che poi è la durata media di un trasporto europeo, non potendosi svolgere delle attività che prevedano movimenti nei corridoi nelle fasi di decollo e di atterraggio, che sono piuttosto lunghe, gli inserventi e i passeggeri sono costretti a dei prodigi di velocità per servire e per inghiottire quanto è prescritto nel pochissimo tempo disponibile. Nei viaggi lunghi come le trasvolate transoceaniche, il tempo naturalmente non manca, ma la sua utilizzazione è enormemente complicata da fattori apparentemente insormontabili. Quello dei fusi orari, per esempio. Chi parte dall'Europa verso gli Stati Uniti decolla in genere verso le 12 antimeridiane, verso mezzogiorno, un po' prima. Pranza regolarmente attorno all'una e fin qua non c'è nessun problema. 7 ore dopo è sempre lì seduto sul suo seggiolino e avrà probabilmente un certo appetito. Ma nel frattempo l'aereo si è spostato in un altro fuso orario. Fuori il sole splende luminoso, l'atterraggio è previsto alle 14:30 ora di New York, ora che non è stata ancora raggiunta, non si può certo servire la cena prima delle 14:30, anche se per te sono le 8:30 di sera, non si può neanche duplicare un pranzo che è già stato come da contratto servito e consumato, e bisogna accontentarsi, se si è in grado di ingollarlo, di uno snack magari ancora meno mangiabile delle presentazioni abituali. Le cose poi vanno ancora peggio per chi dagli Stati Uniti torna in Europa. o dall'Italia va in Cina, suppongo, anche se non ho mai fatto quel percorso. Parte verso le 19, ora locale, cena un'oretta dopo, tutto bene. Fin qui va tutto bene, assiste a un film, un giorno o l'altro vi parleremo dei film proiettati in aereo, delle condizioni in cui vi si fruiscono, oggi no. Cerca di assopirsi perché nel frattempo si è fatto tardi, ma intanto, mentre voi guardava il film, il veicolo è corso inesorabilmente incontro al sole che sorge, e mentre i raggi dell'alba inondano la cabina, lui viene inesorabilmente svegliato perché gli viene servita la prima colazione, che a 2 ore e mezza scarsa dopo la cena può creare non pochi problemi a chi non è avvezzo a consumare la roba con orari così rigorosi. Insomma, in aereo i pasti sono simulati e vengono serviti a orari simulati, secondo un orario simulato in cui, per rispettare gli orari d'arrivo di partenza, che una ragionevole convenzione vuole sempre espressi in ora locale, nessuno tiene il benché minimo conto del periodo di tempo intermedio, che può essere artificiosamente dilatato per chi vola verso ovest o drammaticamente compresso per chi al contrario si muove verso est. E così chi viaggia in aereo può sperimentare di persona il principio per cui in questi nostri tempi moderni non si mangia affatto per saziare la fame, né per rifornire l'organismo delle necessarie calorie, ma esclusivamente per adempiere a un rito sociale slegato da qualsiasi funzione biologica. L'aereo, d'altronde, se ci pensiamo, è un luogo di simulazione per eccellenza. Per qualche motivo che forse varrebbe la pena di indagare, chi gestisce i trasporti aerei non si è mai rassegnato alla radicale novità che l'invenzione del volo meccanico ha rappresentato per i trasporti di persone a livello planetario. La terminologia, se non il rituale, del viaggio via aria mima con strana goffaggine quella del viaggio via mare, no? I passeggeri sono convocati in un porto, sia pure in un aeroporto, sono sottoposti all'imbarco e una volta a bordo sono affidati all'autorità di un comandante, anche se le funzioni di costui in un viaggio terrestre sarebbero assimilate a quelle di un autista. E quando sono riuniti in quella che ci si ostina a definire una cabina, anche se semanticamente la cabina dovrebbe essere qualcosa che ripartisce uno spazio più ampio in unità minori per assicurare una privacy, il che in una cabina di aereo, va sicuro, non succede assolutamente, e una volta che sono riuniti in una cabina non si può far altro che chiedere loro di simulare un viaggio normale, di simulare un viaggio come lo si faceva una volta, quando la velocità del vettore non interferiva con i fusi orari e si poteva fare il giro del mondo in 80 giorni in direzione est senza accorgersi, se non in extremis, di aver guadagnato 24 ore. In questo schema i pasti non hanno assolutamente altra funzione che quella di scandire un andamento temporale che, per chi è costretto a starsene irrigidito al suo posto, bloccato dalla cintura di sicurezza, rattrappito dalla mancanza di spazio, non ha dal decollo all'atterraggio praticamente storia. È una funzione importante, anzi essenziale. E a petto di quella essenzialità, ben poca cosa significa il fatto che i prodotti serviti siano generalmente immangiabili. Però è un peccato che non si possa volare senza rovinarsi lo stomaco. Se si potesse sviluppare il concetto fino alle sue conseguenze logiche, eliminando da quei pasti simulati qualsiasi simulazione di cibo, servendo ai passeggeri all'orario prefissato un set di piatti, vassoi o bicchieri rigorosamente vuoti, si eliminerebbe un gravissimo ostacolo a una sempre maggiore diffusione del trasporto aereo. It's good.